Cari amiche, cari amici, bentrovate, bentrovati, Bursellando, martedì sera. Di tanto in tanto inizio le mie puntate dicendo che litigo col microfono. Ebbene, anche questa sera questa tendenza si conferma. Chissà chi è che viene prima di noi, George, perché effettivamente è un po' un dramma. I sette nani. No. Però è vero, il microfono era abbastanza basso. O Biancaneve, cioè dipende. No, allora no. E allora eccoci qui, è martedì, siamo entrati in quella che abitualmente nota come la Settimana Santa. Sappiamo che in tanti paesi questa è una settimana che è ricca di manifestazioni, di eventi particolari, proprio per onorare queste giornate che ci riportano indietro un po' a quella che è la nostra tradizione. Noi siamo in onda regolarmente, lo saremo anche martedì prossimo. Ci proviamo quantomeno, quindi insomma andiamo avanti col nostro Bruxellando. Qui a Bruxelles è una bellissima settimana di sole, si annuncia così per tutta la settimana, quindi beati quelli che resteranno qui veramente, perché potranno godere di giornate veramente calde e soleggiate. Beati coloro che resteranno in Belgio. Sembra quasi una... Beh, di tanto in tanto capita, dai, a fare... Data la settimana. Che in Belgio resteranno perché del caldo del sole potranno. George, ma tu lo conosci un certo... Dai, digli. Ermanno di Dalmazia. Io lo so che tu lo sai. Sì, perché ti saluta. Ermanno di Dalmazia. Noto anche come Ermanno di Carinzia. Magari lo diciamo conosci. Che era un esperto di ring, vediamo se capisci. E non solo. Il pugile è alle... Il pugile quando sta per finire. Le corde. Corde. Le corde, le famose corde che aspetto da mesi. Eccolo. Sa che Ermanno di Carinzia fu tra i primi ad intuire che poteva esserci una relazione con queste benedette famose corde. Ma ormai le corde, io ho perso la speranza. Ma veramente io aspettavo, cioè, che tu dessi il via a proposito di corde. E io dessi il via, io do le, cioè, se vedi, dice che c'è una possibilità, no, io mi fermo subito e dico: signori, questa sera parliamo di corde, non corde di violino, no, non parliamo di, ma di corde strumenti, di ma super corde, di corde, tra l'altro. Super, George, mi dispiace, non passa una persona che non conosce Ermanno di Carinzia o Ermanno di Dalmazia, no, di corde non può parlare. Infatti io non parlo, mi metto qua in ascolto, in profondo ascolto. Però Pietro il Venerabile lo conosci. Sì, Venerabile Pietro. Ti salvi sempre in corno. Pietro Venerabile. Dai, nemmeno lui conosci. Ma chi è costui? E Giuseppe di Arimatea? Non c'entra niente, però. Giuseppe di Arimatea, quello lo conosco, ma infatti perché non c'entra niente. Vabbè, allora io direi che possiamo allora posticipare la puntata delle corde. No, non posticipiamo, adesso ci dai qualche accenno. A martedì prossimo. Ci dai qualche accenno. No, io scusa, è Pasqua, no? Ci sono le uova. Di ogni tipo, appunto, non a Pasqua si apre l'uovo, no? Sì, ma se rompono a Pasqua l'uovo, non rompiamole oggi le Pasqua, soprattutto non rompete le mie, perché non è ancora Pasqua. Quindi ti prego, accennati qualcosa delle corde. L'importante è non rompere le corde. No, le corde non sappiamo niente. Diciamo corde. Che possiamo semplicemente dire che c'è stato qualcuno che è andato al di là di quella che è la teoria gravitazionale di Newton e che ha un po' stravolto quella che è anche la nostra conoscenza della fisica. Sostenendo e lanciando quella che è la teoria delle corde, o anzi delle supercorde, in questo armonioso movimento che dovrebbe caratterizzare il movimento della Terra e non solo, anche quello dei pianeti circostanti. Ti va bene come là? Sì, va bene come là, però ho bisogno di un mezzo, non capitoletto, ma insomma un mezzo, un executive summary. Come no, no, executive summary no, mi dispiace. Ti ho dato solo l'inizio. Questo era il là. Ma perché, in che cosa si sostanzierebbe? Così poi ne parliamo approfonditamente. Ne parliamo martedì prossimo. Vabbè. Ci siamo un po' in ritardo, c'è l'agenda, abbiamo l'ospite. C'è l'agenda, ma già anche l'agenda. È l'agenda che ci ascolta. Le corde. Vabbè. Prometto che porto il libro con me e lo leggo in aereo. Vabbè, così martedì prossimo sono più preparata. Va bene. Comunque è stupefacente, veramente. Questo Ermanno di Carinzia è stato uno dei... Allora, innanzitutto è stato il primo a tradurre il Corano dall'arabo al latino. Questo nessuno lo sa, ma è stato lui. Secondariamente, questo tu sicuro lo sai, perché tu sei il nostro Bruxellando Pedia. Cioè, dei buchi, un sacco di hole. Tutta una serie di cose che effettivamente sono oggi di nostra cultura, sono di cultura araba, E proprio in quel periodo, che è stato l'anno 1100, proprio grazie a Pietro il Venerabile, che era l'abate dell'abbazia di Cluny, furono tradotte in latino e quindi penetrarono quella che era la cultura occidentale. Cluny. Cluny. Chi c'era a Cluny? C'erano i benedettini. Ah sì? E c'era la cattedrale di Cluny. Erano i benedettini, e quelli, certo, di Cluny? Siamo sicuri che non fossero cistercensi? No, erano cistercensi. Erano cistercensi. Scusa, devo constatare se tu stai brustolando per Dio. Io chiedevo. Giusto, dobbiamo fare le prove, altrimenti erano cistercensi. Comunque, se ieri sera. Ricordo se pure Umberto Eco. Sì, penso che abbia scritto proprio il nome della rosa. E sull'abbazia di Cluny, non mi ricordo. Mi ricordo. Da rinfrescare. Vabbè. Comunque, che tra cosa è sull'abbazia di Cluny? No, mi chiedevo se Umberto Eco dove aveva, non mi ricordo più dove aveva, emerge, dove dice, aveva si ambientato. No, il nome della rosa è ambientato in un luogo non definito, quindi lui praticamente si è inventato questo momento. Ah, perciò la chiama il nome della rosa. Proprio perché era benedettino, non cincesco. Ah, era benedettino, hai visto? Vabbè, tutto confuso le idee. Scusami. Perché beh, non ho letto il nome della rosa. Comunque, per concludere, Ermanno di Carinzia, lui fu uno dei primi che coniugò quelle che erano le istanze dell'Europa occidentale medievale con quelle che invece erano le istanze arabe. E l'ho trovato un personaggio estremamente interessante. Ecco. Beh, ce ne sono. Quando parliamo d'Europa, in realtà mi sembra che l'Europa non sia nata nel 57 col trattato, ma c'era anche assolutamente, prima. Molto prima. Beh, un bel personaggio pure, se vogliamo. Aveva viaggiato in Oriente, insomma, ieri sera mi sono divertita, sono capitata per caso su questo personaggio e ecco, e volevo condividere con te questa questa lettura. Ermanno il Dalmata, sì. Pensa un po'. No, questa figura mi è sconosciuta. Tra l'altro mi sono divertita con Daniele a leggere anche un po' di croato, che Daniele dovrebbe parlare correntemente ma è troppo timido per esporsi. E quindi abbiamo anche piacevolmente chiacchierato in croato. Che bello. Pure tu? Dobro. Ah, beh, già questo. Polacco-polacco. Prossima puntata di Bruxellando in croato. Perché no? Posso tentare, posso almeno aprire in croato. Questo, vedi, era il mio secondo impegno per la trasmissione. Ma parlare in croato, puoi parlare di corde. Allora, posso fare l'apertura in croato, però poi di corde ne parliamo, se vuoi, in inglese. Sì, no, le corde anche in italiano. Però, ah, le corde, vabbè, sono contenta, Milano. Questa sera abbiamo il nostro angolo dedicato alla penna del diplomatico, che ritorna nuovamente con noi, ed è il nostro ospite in diretta telefonica, Roberto Mengoni. Roberto. Buonasera, ciao. Benvenuto. Buonasera. Sì, buonasera, salve. Ben trovato a Radio Alma, a Bruxellando, siamo in diretta con i nostri ascoltatori e non avendo ancora avuto il piacere di introdurti, magari se ti va di raccontarci un po', insomma, di presentarti ai nostri ascoltatori. Ma ecco, va bene, non so dove cominciare, ecco, io sono un, come forse avete detto prima, appartenente alla carriera diplomatica italiana, sono attualmente a Roma, al Ministero, all'amministrazione centrale, ma ecco, in precedenza ho fatto un paio di sedi all'estero, una in Corea del Sud e poi 4 anni in Australia, nella capitale, a Canberra, ecco, questo diciamo più o meno quello che ho fatto negli ultimi 13 anni di lavoro. E in più c'è questa passione per la scrittura, che è un po' comune a tanti diplomatici, sembra che quasi tutti scriviamo qualcosa, chi cose più serie o ponderose, e chi invece magari come me invece si diverte a fare cose più leggere e divertenti. E quando è che hai cominciato a scrivere? Quando è che ti sei proprio cimentato magari con qualcosa di, diciamo, di che non fosse una nota oppure una lettera o qualcos'altro? Quando hai capito che potevi fare il grande salto? Ma diciamo la passione c'è sempre stata, insomma, per scrivere storie più di vario genere. A un certo punto, forse negli ultimi tempi, magari il tentativo di provare a fare una storia più articolata, più complessa, che fosse magari appetibile anche ad altre persone, insomma, non soltanto scrivere così per se stessi nei ritagli di tempo, ma darsi un po' da fare una storia un pochino più fatta bene. Negli ultimi 2 anni, diciamo, ecco, questo è maturata, chiamiamola la scelta di fare questo grande salto, ma chiamiamolo così. Chiamiamolo così. Però come dicevi prima ci sono diplomatici e diplomatici, quindi giustamente dice ognuno poi sceglie uno stile, però tu ne hai scelto uno abbastanza particolare. Sì, beh, io mi sono cimentato con le storie, una storia per ragazzi, prima di tutto perché ho due bambini che hanno subito le mie storie della buonanotte per 12 anni praticamente, hanno smesso adesso di chiedermi storie. E alcune di queste storie erano fatte talmente bene che ho deciso di metterle su carta e di scriverle, perché mi sembrava un peccato che rimanessero così nel nulla. E diciamo, quindi l'ispirazione fondamentale sono i figli, questa è la sola cosa. Poi mi sono divertito anch'io però a scrivere una storia d'avventura, perché insomma non è una cosa complicata, è più da divertirsi, da inventare situazioni strane e misteri, quindi insomma è qualcosa di anche un po' diverso da quello che facciamo normalmente al lavoro. Ah, beh, certo, aiuta anche magari a pensare in altro modo anche la nostra realtà. Esattamente, insomma è anche un modo per fare delle cose diverse. Poi in realtà poi mi sono accorto che magari anche qualche cosa del lavoro si è infilata dentro. Mm-hmm. Beh, inevitabilmente, ecco. Qualche cosa un pochino più seria, qualche notazione un pochino più complicata si è infilata anche in una storia per bambini, magari loro ho deciso di infilare anche, di parlare un po' della guerra, della seconda guerra mondiale, esatto, della persecuzione degli ebrei in una storia per ragazzi, quindi è una storia d'avventura, però anche c'ha qualche risvolto anche più diciamo serio. E dove nasce questo titolo che ha un po' l'idea, sai, il mistero delle 12 querce? Sì, guarda, è uscito fuori veramente spontaneamente. Ah, dico, pensavo fosse costruito, perché e complimenti. Scusami, sì. Sì, ecco, è uscito fuori senza, come tutta la storia. La storia è quasi da non crederci. Tutto quello che c'è nelle 180 pagine della storia è stato raccontato in maniera spontanea. È uscita fuori, è sgorgata proprio spontaneamente durante queste storie della buonanotte con i figli, il titolo compreso, e il riferimento appunto del titolo è a delle misteriose rocce piene di energia e che risalgono a un'epoca leggendaria e antica, che in qualche modo sono arrivate fino ai giorni nostri. Quindi un classico mistero, diciamo, una classica storia d'avventura un po' sull'archeologico, forse niente di particolarmente nuovo, mm-hmm, però insomma ci sono vari colpi di scena e varie situazioni strane che capitano a questi ragazzi protagonisti della vicenda. Quanto i tuoi figli poi ti hanno, diciamo, ispirato rispetto ai personaggi principali? Sono tutti insomma ragazzi, per l'appunto ragazzini, così come tu dici. Sì, si sono fatti un po' più o meno l'età dei miei ragazzi, insomma, e anche certi tratti caratteriali sono presi da loro, chiaramente. Poi però insomma mi sono ispirato anche agli amici che avevamo all'epoca in cui eravamo noi, a 12-13 anni, insomma, che insomma era, non è che avevamo queste avventure così splendide, però voglio dire, sicuramente cercavamo di divertirci, quindi ricordo anche di cose passate tanti anni fa, tanti decenni anni fa, quando eravamo appunto ragazzi, le ho un po' riproposte in questa storia. Gli elementi vengono da varie parti per una storia, caratteri, situazioni, emozioni, trovano diverse fonti di ispirazione. E chi è invece un autore che magari al quale hai pensato mentre scrivevi, o che è stato un po' un tuo riferimento nella scrittura? Allora, io dico ci sono due grandi autori che fanno il mio riferimento. Uno è un autore serio, della Rowling. Forse i miei colleghi magari mi penseranno: ah, ma proprio allora siamo messi male. Nel senso, la serie di Harry Potter è assolutamente un capolavoro dell'avventura per ragazzi e per adulti. Beh, certo. E quindi, diciamo, senza alcuna pretesa neanche di essere un dito della Rowling, però sicuramente quello è un punto di riferimento. E poi tra gli autori, invece, altri autori più seri, sicuramente uno che mi è particolarmente caro, che trovo molte ispirazioni, è Jonathan Coe, che fa dei... Ah, beh, certo, Jonathan Coe. Che è un grandissimo inglese, scrittore inglese, che fa... Io ho letto solo La casa del sonno di Jonathan Coe. Il sonno, la famiglia Winshow, la banda dei Brock, insomma tutta una serie di... Però effettivamente hai ragione, autore effettivamente poliedrico, è imprevedibile poi, almeno nella casa del sonno è stato oltremodo imprevedibile, però effettivamente è un autore che... da seguire con un certo interesse. Guardando invece alla nostra letteratura, la letteratura italiana, sia diciamo attuale che recente, sai, anche in occasione del 150esimo dell'Unità si fa un po' di analisi, si cerca, sai, le classifiche dell'ultimo, eh? Però per te qual è un autore diciamo che vale la pena seguire, insomma, o che ti piace in particolare? Io purtroppo forse sono rimasto un po' indietro sugli autori, per cui io rimango un po' fermo a autori diciamo vecchi, nel senso che sono scomparsi da qualche anno. Per me appunto Italo Calvino rimane certo. L'insuperabile maestro della lettura della letteratura italiana, anche per chi scrive, anche per chi legge, insomma, cioè le storie che lui ha raccontato sono assolutamente, come dicevi tu prima, imprevedibili, straordinarie, ricche di sorprese e allo stesso tempo capaci di farti pensare in maniera completamente inusuale anche su delle situazioni completamente normali, ordinarie. E poi tra i più recenti trovo difficoltà poi a seguire magari le cose più recenti di italiani. Però magari qualcosa relativo alle tue missioni, magari quando sei stato in giro c'è un autore che ti ha colpito, magari non necessariamente allora italiano, insomma nelle varie missioni o nelle varie sedi in cui sei stato all'estero. Sì, senz'altro. Tra gli altri autori, un altro autore che forse segnalerei, anche questo che sul lato un po' particolare, è un giapponese, è Murakami, che insomma, ha fatto dei libri anche quelli di notevole spessore. E qui apri una porta aperta. Murakami ne parliamo, abbastanza spesso. Un giorno no. È uno dei nostri autori più amati, diciamo. Però io invece ti volevo chiedere, Stefano Benni? Ah, ecco, giusto, hai ragione. Cioè, me l'ha proprio sfuggito. Stefano Benni, sì, Stefano Benni forse è l'ultimo autore che abbiamo. Sì, sono d'accordo, anche gli ultimi che ha fatto. Anche se tende un po' a ripetersi sulle situazioni, sulle storie, tende un po' a proporre sempre lo stesso, però ha una facilità di scrittura, una capacità di esprimere l'umanità dei suoi personaggi che secondo me è unica in Italia. Sì, io credo che abbia bisogno Stefano Benni per potersi esprimere di cambiare continuamente. Non appena se trovo un genere e poi scrivo un altro libro lo stesso genere, dopo si copia. Invece ha bisogno di cambiare. Cioè, insomma, c'era Barsport e Barsport 2000, che erano uno la continuazione dell'altro. Però poi penso a Ulisse, al Bar sotto il mare, insomma, ci sono un sacco di situazioni, Compagnia dei Celestini, cioè sono generi, se vogliamo, diversi fra di loro, dove lui secondo me si esprimeva. Però sono d'accordo con te che poi credo che fosse proprio perché quando prende una strada, se la continua a percorrere, poi si ripete, invece ha bisogno di cambiare, di spaziare, visto che è così polivalente. Sì, tende un po' a ripetersi, però ecco, forse continua la struttura continua a essere più o meno sempre la stessa, però poi le sue invenzioni linguistiche sono sempre ricchissime e imprevedibili. Torniamo alla parola imprevedibile. Certo. Quindi che allora le 12 rocce dell'orrore, no? Di cui parlavamo prima, le 12, quindi 12, c'è un riferimento preciso a qualcosa oppure è casuale, nuovamente imprevedibile questo 12 che tu hai posto nel titolo? Il 12 è come il 7, questi numeri che devono per forza ricorrere, cioè, se tu dici 13 rocce dell'orrore non ci crede nessuno, se tu dici 11 sembra che parli di calcio, quindi no, devono essere 12. I numeri magici, il 3, il 10, il 7 che è la moltitudine, il 3 che è il numero perfetto, 10 che è la somma dei numeri perfetti. Ma sono quelli numeri da utilizzare. Ritornando quindi un attimo magari anche al libro, quindi dicevamo prima che c'è questo sfondo comunque storico per dare poi un senso anche diciamo veritiero alla storia stessa, però come mai hai voluto ambientarlo in Bretagna e poi nel giugno del 44? Sì, perché diciamo prima di tutto perché chiaramente la storia è ispirata a queste antiche leggende che mi sono inventato completamente, dei Celti, dei Galli che avevano queste 12 rocce che con cui potevano comandare gli elementi e potevano distruggere i nemici, quindi insomma è più facile ambientare in una zona come la Bretagna, che è già suolone di mistero, rispetto ad altri posti. E in più volevo collegare invece tutto questo discorso, appunto la guerra, appunto al 44, cioè una delle situazioni del libro è appunto ambientata nel momento dello sbarco in Normandia, quindi nel 1944, appunto uno dei fatti che avvengono appunto all'interno del libro è collegato appunto alle ultime fasi della guerra, della Seconda Guerra Mondiale. E insomma questa insomma era un po' i due retroscena. Certo, vi dico volentieri che sto pensando che magari come secondo libro dovrei scrivere una storia ambientata in Italia, visto che, ma non solo per i 150 anni, ma perché anche noi abbiamo un bel panorama ricchissimo di leggende e di storie a cui attingere. Beh, su un tal castello di pianta esagonale, per esempio. Sì, infatti. Già di per sé è fatto così, insomma, lascia un po' perplessi. E quindi... Sì, molto bene. No, beh, diciamo che poi insomma voi scrittori basta poco, no, per mettervi in moto. Poi uno scrittore come te, insomma, abituato già a destreggiarsi tra avventura e imprevedibilità, penso che gli elementi insomma siano già tutti quanti lì. E che cosa bolle in pentola invece? Come, scusa? Cosa bolle in pentola? Che cosa stai pensando, già a qualcos'altro, a un seguito come dicevi prima, oppure? Sì, no, sicuramente sì, perché anzi sto pensando a più cose contemporaneamente, veramente, perché ancora non ho ben chiaro cosa fare, però ritengo che comunque sempre sul genere un po' fantastico, e stavolta però andiamo decisamente sul lato adulto della vita, ecco. I bambini sono cresciuti, quindi adesso bisogna passare, certo, a cose un pochino più difficili. Allora stavo pensando di scrivere una storia stavolta ambientata nel mondo della corsa. Che è un'altra grande passione, sempre sul fantastico, sempre sullo strano, sull'irreale, però che parte da una situazione concreta. Però è un'idea che procede lentamente, purtroppo lavoriamo troppo e non c'è il tempo per dedicarsi tanto alla scrittura come uno vorrebbe. Sì, questo è vero. Beh, l'importante è insomma avere un'idea e coltivarla, insomma, strada facendo. Da poco alla volta, un'ora al giorno si fa. Avere già un'ora al giorno sarebbe una cosa molto preziosa. Niente male, direi. Roberto, prima di salutarci, c'è un saluto, insomma, vuoi approfittare dei nostri microfoni per qualsiasi cosa, insomma, abbiamo ancora un paio di minuti. Ma guarda, sì, io sinceramente quello che vorrei dire, prima di tutto salutare tutti gli italiani che sono lì in Belgio. Io ho lavorato anche in Australia, ho lavorato moltissimo con gli italiani che abitavano invece in Australia, a Canberra, quindi mi è piaciuto molto quel lavoro fatto in Australia, quindi veramente vorrei salutarli con affetto, tutti gli italiani del Belgio, anche se non li conosco ovviamente per non avendoci mai lavorato. E poi vorrei dire, magari visto che siamo nel 150° anniversario, sentiamoci orgogliosi di essere italiani, tutto sommato è un bel paese. Sai, sì, che ce lo dicono tutti, no? Quando siamo qui a Bruxelles oppure ci troviamo ad andare in giro, ci dicono: ah, voi siete italiani? Diciamo sì, e tutti ci dicono come siete fortunati, l'Italia c'est un pays incontournable, tanti ci dicono, e insomma è necessario andare in Italia, peccato che non sia un'opinione condivisa. Comunque noi siamo orgogliosi di essere italiani, e il nostro umile contributo per la lingua e la cultura italiana, la diffusione anche di autori giovani, giovanissimi, noti, meno noti, a seconda di quelle che poi sono le richieste che ricevamo noi stessi a Bruxellando, va proprio nella direzione che hai appena indicato. Roberto, noi siamo stati veramente felici di averti qui nostro ospite. Ricordiamo quindi ai nostri amici ascoltatori Le 12 rocce dell'orrore, il mio libro.it, edito nel 2010, e so che tu hai pure un bellissimo sito internet, posso dirlo perché l'ho visitato, molto colorato e suggestivo, però ora mi sfugge il link, magari se possiamo ripeterlo così. Sì, va bene, certo, e dunque www.roberto-mengoni.it. più facile di così. Si ah, perfetto, chissà perché ho memorizzato qualcosa. Esattamente.it. Benissimo, quindi allora faremo anche un link sul nostro brussellando.blogspot.com. La puntata poi sarà uploadata, quindi non appena disponibile la riceverai e, insomma, vedrai quello che poi è il servizio a prevanto, come ha detto qualcuno. Abbiamo anche il servizio a prevanto di Brussellando, incredibile. Così mi è stato detto un po' di tempo fa, quindi insomma, vedi, è un'equipe abbastanza completa. Roberto, noi ti ringraziamo tantissimo della tua disponibilità, facci sapere di quelli che saranno gli sviluppi futuri relativi alla tua scrittura. Auguriamo a te e alla tua famiglia un'ottima Pasqua. Grazie mille, anche a voi. Allora, buona Pasqua e tanti auguri per la vostra trasmissione. Grazie, buona serata e a prestissimo. Di nuovo. A presto, ciao. Ciao, ciao. Salut, je suis Dani et si comme moi tu veux faire partie de l'équipe de bénévoles de Radio Alma, envoie un mail à l'adresse mail@radioalma.bo. À bientôt. E voilà, abbiamo avuto anche la nostra pubblicità, meno male, volontaria, ma fa piacere. Cosa c'era nuova di Pasqua? La voce di Dani. A me c'è la voce di Dani, ma non so chi è Dani. Non so chi è, perché tu vedi, perché tu sei distratto. Questo è sicuramente... Sei distratto, cioè, lavora con noi già da vari mesi, Danny Felix. No, bene. Non dice nulla proprio. Domani sera alla riunione dell'equipe. Domani sera alla riunione dell'equipe. Alle ore 19? Sì, alle ore 19 solo su Tele più 2, no, solo su Radio Alma. Ah, ho capito, beh, buono a sapersi. Fondi privati allora disponibili. Prima di ci sono giusto 4 eventi, dai, li elenchiamo, non è un'agenda ricchissima. 4 eventi, no, però insomma, a parte che vi ricordo che ci sono le serre reali che stanno aperte fino all'8 maggio, quindi ragazzi, visto che c'è il sole, visto che c'è la Pasqua, insomma, andate a vedere. Però 26, il 26 aprile è chiuso perché è il compleanno del figlio del re. Sì, che purtroppo invece di martedì 26 decide sempre di festeggiare le serre reali. No, a meno che voi non siate invitati alla festa. Beh, mi auguro per voi che siate allora invitati. Se siete invitati, andateci perché vale la pena. Ma magari siamo invitati al matrimonio dell'anno. Comunque, se ci andate a Londra. A Londra. Comunque, se ci andate, state attenti perché chissà che è in contemporanea, cioè il falconi per tutti, non vorrei mai che le serre reali ci fossero anche i falconi che girano. Chissà, i belgi sono imprevedibili pure loro, vedi, ritorna sta parola stasera, imprevedibilità. Perché c'è una coppia di falconi pellegrini che sta allevando i piccoli sopra una torre della cattedrale di Bruxelles, incredibile. Della cattedrale? Sì, della cattedrale di Bruxelles. Quindi in aprile e maggio Faucon pour tous vi propone di seguire in diretta la cova e quindi la scoperta, la schiusa e le prime fasi delle vie dei falchi fino al loro volo. Uno spettacolo unico che ovviamente è 24 ore su 24, perché non è che la cova si interrompe. E quindi allora il posto di osservazione è sul parvis della cattedrale di Saint-Michel et Gudule, che sappiamo dov'è, bellissimo. Cattedrale Bianca. Bella, sì. E gli ornitologi vi accoglieranno dal martedì alla domenica dalle 12 alle 18. Quindi insomma, bisogna recarsi e poi si va a vedere questi falconi che corre. Incredibile, falconi pellegrini in centro a Bruxelles. Per quanto invece volessero essere sorpresi da uova un po' sui generis, vi suggeriamo di visitare il Museo delle Scienze Naturali, perché al museo non ci sono che solamente le uova al cioccolato, ma ci sono le uova dei falchi, delle farfalle, delle lumache, delle rane e anche dei dinosauri. E sono nascosti nelle sale del museo. Quindi a questa avventura bisogna naturalmente partecipare in famiglia o a quanti hanno ancora uno spirito bambino e scoprire quelle che sono poi le piacevoli sorprese proprio organizzate al museo. Tra l'altro ci sono anche sorprese gourmand, quindi non c'è soltanto la caccia alle uova, c'è anche qualcos'altro. Tutto questo al Museo delle Scienze Naturali a Rue Vautier 29, 1000 Bruxelles, 4,50 € l'entrata e per i bambini con meno di 6 anni l'accesso è gratuito tutti i giorni, no, il 23 aprile, quindi ancora prima di Pasqua, dalle 10 alle 18. Io mi ero dimenticato di dire il sito web, se volete andare a vedere. Sappiamo che bisogna andare lì alla cattedrale dalle 12 alle 16 per vedere i falconi, ma se volete sapere di più andate su www.faconpelerin.be. Bene. E poi c'è anche, visto che parlavamo di uova, di giochi, bambini, beh, insomma, c'è uno spettacolo per bambini che si svolge al Museo del Giocattolo 24 Rue de l'Association a Bruxelles. C'è il Museo del Giocattolo? È il Musée du Jouet. Mais oui. E c'è uno spettacolo per grandi e piccini, una storia magica in un luogo incantato. Allora, l'entrata allo spettacolo ovviamente è indipendente da quella del museo, l'entrata però è un'entrata insomma assolutamente abbordabile, 2,50 euro, ed è alle 3 e alle 4 dal 21 aprile, e quindi ci siamo ormai, fino al 30 giugno. E per concludere, come dicevamo, l'agenda non è ricchissima, c'è un'interessante mostra che è già iniziata il 9 aprile e che si conclude il prossimo 30 aprile a Tour e Taxi, tutti i giorni dalle 2 del pomeriggio alle 20, chiamata Paesaggi Ironici. Il titolo Paesaggi Ironici altro non vuole essere che la maniera attraverso la quale l'autore, quindi il pittore di questa esposizione, vede l'oggetto, che non è l'oggetto in quanto tale, ma il paesaggio interiore che questo oggetto significa. E qui si fa riferimento all'ambiente urbano, che è multiplo, interiore e allo stesso tempo concentrico, che costringe l'individuo a guardare proprio questi paesaggi diversamente. L'autore cerca anche di spiegare quello che è poi il significato stesso dell'ironia. È veramente è una mostra particolare, perché in realtà questi paesaggi urbani ironici non sono che altro che dei ritratti umani che descrivono gli individui non soltanto nel loro modo di apparire, ma anche nel loro modo di interagire. Qui nasce proprio il senso dell'ironia, che dà proprio accesso all'interpretazione di quelli che sono i paesaggi altrui. Mi rendo conto che è un concetto che in due minuti non possiamo sviluppare, però noi vi consigliamo di visitare il sito internet jos.tontlinger.fotografi.overblog.com, perché è davvero un concetto interessante che vi suggeriamo di esplorare approfonditamente. Beh, magari è meglio se andate a vedere sul nostro sito web brussellando.blogspot.com, perché io non ho capito assolutamente niente dell'indirizzo, cioè è un po' troppo lungo. È un po' troppo lungo, lo so. Sono quei famosi indirizzi che uno dice no, però non posso dire. Memorizza l'autore, Jost Tontlinger. Ma anche io Stontlinger, lo so, cioè, mi dispiace. È più difficile dirlo che scriverlo, quindi andate a vedere, andate a visitare il nostro sito brussellando.blogspot.com e ritroverete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Bene, e io passo la parola. L'imprangolo. Oh, ti stavo parlando dal mondo dei spiriti. Eh beh, certo, parlavamo di Cluny, Bazzia, Cistercensi, eccetera, poi Benedettini, il famoso Ermanno di Carinzia, io di Dalmazia, magari erano fratelli, non erano No, no, persona, sono la stessa persona, si chiama anche Ermanno Sclavus, c'è pure un terzo nome. Chiaro che si chiamava Ermanno Sclavus, questo è ovvio, perché? Perché? Dimmelo tu. Sclavus, schiavo, slavo, Slavonia. Ho capito. Dalmazia. Schiavi della schiaveria. Ma vedi che ti do tutte le alternative per completare le informazioni. Io vi darò tutta l'occasione di discutere nella puntata delle corde. Però adesso io vi ho portato un altro libro di David Mitchell, che sta cominciando di essere un altro dei miei preferiti, quindi oltre a Haruki Murakami anche di David Mitchell parleremo. Haruki, un giorno sì, un giorno no. Bene. Non so se vi ricordate che vi avevo già accennato i mille autunni di Jacob de Zoet. Come? Assolutamente. Assolutamente, che era un'esperienza di lettura molto piacevole. E adesso invece vi ho portato L'Atlante delle nuvole dello stesso autore. L'Atlante delle nuvole è anche un concetto, diciamo, un po' mistico, filosofico, che torna varie volte nel libro, ma è anche il nome di un pezzo di musica scritto da uno dei protagonisti del libro. E questo libro è molto particolare perché praticamente sono sei libri insieme. E questo è, cioè, se l'autore, dal punto di vista finanziario, se l'autore fosse stato furbo, avrebbe potuto produrre sei libri diversi tranquillamente. Però quello che ha scelto lui è di intrecciare queste storie praticamente come se fosse, diciamo, una migrazione delle anime, se possiamo dire così. Uh-huh. Cioè, tutti i protagonisti hanno qualcosa a che fare con l'altro e tutte le loro vite a qualche punto si incontrano. Cioè, c'è il primo è un notaio del 1900 che sta intraprendendo un viaggio negli antipodi, diciamo. Antilopi, come si dice? Antilopi, e di cui storia è letta dal secondo protagonista, che è invece questo compositore che invece vive negli anni 30. E poi allora la musica di questo compositore affascina tanto invece una ragazza che è una giornalista e che è coinvolta nello scoprire un progetto scientifico, cioè un progetto energetico un po' pericoloso. E invece la sua storia nella forma di un libro è letto da un editore vecchio che è rinchiuso dentro una casa di riposo, contrariamente alla sua volontà. E poi la connessione invece diventa un po' più spirituale, perché praticamente la storia di questo uomo che è rinchiuso nella casa di riposo è messo su film, e questo film, lontano nel futuro, lo guarda un fabbricante che non è altro che un clone che è stato creato per servire i puro sangue quindi la gente normale, quindi adesso siamo oramai nel futuro lontano. E che poi invece diventa, diciamo, un tipo di dio per un'età futura, per un'età ancora più futura, in cui la civilizzazione oramai è decaduta e si comincia proprio di nuovo da zero, dai granelli. E in tutte queste storie comunque riflettono anche un po' la circolarità della storia. L'idea della schiavitù è una cosa che comunque lo ritroviamo in varie delle storie, o anche, cioè, la dignità umana, di la giustizia, eccetera eccetera. Quindi è interessantissimo, e le storie stesse sono interessanti, e sono tutti scritti in un altro stile, ovviamente, lo stile che corrisponde al personaggio, ed anche questo è una prestazione letteraria molto importante, perché essere credibile in varie, diciamo, varie età, varie situazioni, eccetera, è anche abbastanza difficile, e anche intrecciare queste cose in modo credibile è una sfida, e lui riesce a farlo. Quindi questi sono praticamente sei libri che però riescono ad incastrarsi in qualche modo. Quindi secondo me vale assolutamente la pena, tutte le tipo 500-600 pagine più o meno. Stavo notando, sì, sono cioè tutte scritture secondo me tutto vale la pena. E non lo so, magari non vi racconto più di tanto della trama, perché è meglio scoprirlo un po' alla volta. Mi pare che anche i Sposi Messi di Alemanzo Sandroni siano sulle 600-500. I Promessi o gli Sposi Promessi, penso proprio di sì. Sai che non ho mai finito, mi sono fermata al capitolo 35. Oh mamma mia, non hai letto i Sposi Messi? Ho letto fino, non ho detto che non l'ho letto, ho detto fino romanzo, al capitolo 35 romanzo. Gli ultimi tre non ce l'ho fatta a finirli. Insomma, la folla, il valore politico della folla, però insomma l'hai preso quello abbastanza, sì. Devo dire la verità, sì. Allora io mi chiedo, sì, anche perché è citato, sono citato nei Promessi Sposi. Tu sei citato? Sì, come Zecca Garbone. No, le origini della mia famiglia sono citate nei Sposi Messi. Davvero? George Laurent viene dal Bergamasco? Ma che Bergamasco? No, non cominciamo a fare confusione. George, dillo che era la Perpetua che ti interessava. Era il Bergamasco, scusa, il tramanzino, come si chiama? Insomma, di dov'era? Cioè, a parte che io non ho detto che è il suo legato protagonista. Comunque chissà. Bergamo ai tempi era sotto la Repubblica Veneta. Mi pare che già me l'avevi detto. Comunque, mi pare che già avevi raccontato. Volevi fare una domanda? Sì, volevo fare una domanda, se ci riesco. Se ci riesco, tu sei partito dal 1600 per arrivare altro che la futura apocalittica. Vabbè, qui cominciamo invece nel 1900. Sì, nel 1900. Una domanda meditata. E arriviamo al 2000 è imprecisato, arriviamo nelle profondità dei tempi futuri. Visto che sono sei libri diversi, c'è un filo conduttore. Tu hai parlato di un legame tra un libro e l'altro libro, no? Cioè i personaggi che si incontrano, ma c'è anche un filo conduttore. Sono le nuvole, no? Fine. Sono le nuvole. No, cioè, le nuvole appoiano un po' ovunque, diciamo, però, però secondo me il legame fra le storie sono proprio i personaggi stessi e come le loro vicende ad un punto almeno si incontrano. È un filo conduttore, è piuttosto come dicevo prima, la storia e di come si evolve e di come e di quanto è circolare. Cioè, stranamente troviamo degli elementi comuni fra la storia del notaio del 1900, che per esempio cerca di salvare un Moriori, diciamo, che vuole scappare dalla schiavitù dei Maori, per esempio. Cioè, fra questa storia e la storia nel lontano futuro del cosiddetto fabbricante, che praticamente è uno status di schiavitù e da cui lei poi si innalza e si ribella, e la sua ribellione avrà delle riscossioni anche nel futuro. E quindi ci sono questi elementi sempre, cioè un sacco di elementi che sono comuni, cioè per esempio essere messi dentro la libertà, direi, cioè essere messi dentro una casa di riposo contro la tua volontà è comunque una violazione della tua libertà. Quindi cioè, questo elemento della libertà è proprio là, in tutte le storie. Tu dici quindi che questo è fondamentale alla libertà o alla circolarità della storia, il filo conduttore, se c'è? Secondo me sono vari fili conduttori, non si deve troppo semplificare questo universo di sei libri. Non so, perché mi veniva in mente che quest'uomo che scrive questi sei libri li collega insieme, forse viene in mente qualcosa, un principio base intorno al quale poi ha sviluppato tutte le storie, o comunque ha tenuto presente per sviluppare altre storie. Ti ricordo che è Bruxellandopedia che parla. Io capisco Bruxellandopedia, ma mi sa che questa è una cosa che si dovrebbe proprio chiedere all'autore, no, perché il lettore riesce a scoprire un sacco di elementi che collegano le storie, però l'intenzione originale è meglio sempre chiedere a chi l'ha scritto. Giorgio, con questo trittico di domande ti è stato assegnato il premio Gigi Marzullo 2011 comunque. No, adesso devi farti una domanda e darti una risposta, così il premio deve essere suggellato da questo. Però invece no, quello che veniva in mente mentre parlavi è proprio che il concetto della vita, cioè il filo conduttore della vita. È il premio vita. Il filo conduttore è tanto che la vita si basa sempre sulle stesse cose, però viste con un effetto prismatico, con mille sfaccettature, mille angolature. Di fatto anche gli uomini sono così. Noi uomini abbiamo lo stesso DNA, siamo praticamente identici uno all'altro, però ognuno di noi è individualmente avvolto nella cellophane come le sottilette craft, cioè siamo individui ben determinati, pur essendo praticamente identici uno all'altro. Sì, e anche diciamo il contesto mostra delle similitudini, cioè c'è qualcosa di più grande di noi che comunque sembra di essere non stabile, ma riconoscibile. Io direi che se me lo concedete, io direi che se me lo concedete, allora la settimana prossima parliamo di corde, del cosmo, e poi vi dico qual è l'opinione di Ermanno Di Carinzia su quello che stava dicendo poc'anzi, perché sul anche cosmos, lui il caos, bravo, sì, e lui aveva sviluppato, secondo me, per essere nel 1100, teorie molto interessanti. per venire dalla Carinzia. Beh, la vita sta tra cosmos e caos, anzi sta nel movimento dal caos al cosmos e viceversa. Ci sei vicino, lui qualcosa del genere diceva, in maniera un po' più articolata. Beh, certo, però sei sulla buona strada, sei sulla buona strada, il nostro Giorgetto. Il caos è improduttivo, così come il cosmos. Giorgetto, no, lui fa pure un riferimento molto interessante tra il caos e il tempo, il cosmo e il tempo. E la concezione stessa del tempo. Vorrei vedere, secondo me, se era veramente avanti, avrebbe dovuto mettere il tempo come semplicemente una delle forme, come un elemento. Più o meno, ci sei vicino. Andremo a vedere. Te lo dirò la settimana prossima. E invece cosa si dice a Brusselando rispetto al tempo? Che il tempo è tiranno. Però visto che siamo a Pasqua, diciamo che è uno stegosauro così. Così siamo tutti felici. Un uovo di stegosauro. Un uovo di stegosauro. Bravo, esattamente. Bravo, ti ringrazio. Allora, noi siamo alla fine, vi auguriamo per chi parte uno splendido viaggio, delle splendide vacanze, per chi resta ugualmente di godersi questa Bruxelles primaverile e soleggiata. Io saluto Roberto Mengoni, che è stato nostro ospite qui, insomma, non nostro ospite al telefono, ma graditissimo, che ci ha un po', insomma, fatto rivivere l'imprevedibilità dell'infanzia. Ringrazio il mio Giorgetto, senza il quale tutta una serie di citazioni non avrebbero alcun senso, perché la memoria diventa labile, allora Brusselandopedia conferma oppure no, dipende, esatto, da quanto la sottoscritta è sveglia. Ringrazio Imola, che come al solito veramente devo veramente complimentarmi, perché nelle ultime settimane ha suggerito una chicca dopo l'altra, veramente straordinaria. E che cosa? Che cosa, sì. Dani M in regia. È la mitica Meridì. Meridì, un po' stanca, tutto questo non esisterebbe. Vi saluta. Ciao. Ciao. Ciao. Brusselando.